si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi, come avevo promesso ieri, promesso a chi mi legge, non soltanto a chi mi ascolta, visto che questa mattina già vedo persone pronte a telefonare, vuol dire che l'argomento promesso che adesso vi dirò era un argomento succoso. Ieri ho detto che oggi avrei dato parola a separati e divorziati, ma non tanto per parlare dei problemi che li hanno portati alla cruenta e dolorosa separazione, non tanto per parlare delle difficoltà legali, burocratiche, dell'iter difficoltoso per ottenere un divorzio, ma per parlare della loro vita. Visto che ormai è una categoria molto rappresentata, altamente rappresentata, chi ha un figlio a scuola sa che la maggior parte dei suoi compagni di scuola comunque hanno famiglie con i genitori separati. Ormai è una percentuale altissima, perlomeno non è più un fatto non consueto. Nel nostro giro di conoscenze e amicizie di signore e signore di mezza età quali siamo, sappiamo che la maggior parte delle persone con cui abbiamo rapporti e relazioni vengono da una, due, tre varie esperienze prolungate di vita di coppia. Ma sappiamo altresì che i numeri sono abbastanza impressionanti. Io ho sotto mano una serie di rilevazioni prese dal Corriere.it. Nel 2007 sono stati registrati 2.074 divorzi in Italia. Pensate che l'anno prima erano soltanto 1.600, quindi è un notevole aumento. Ciò che sono costati, per un calcolo approssimativo, le spese andate in separazioni, divorzi e vicende di famiglie spaccate sono 50 milioni di euro, quindi più o meno quanto incasserebbe il comune di Milano in 30 anni di Ecopass, quindi è qualcosa di ponderoso. Ma non stiamo qui a definire se sia bene, se sia male, se sia qualcosa che lede profondamente la compattezza dell'istituzione cardine della nostra civilizzazione, che è quella della famiglia. Non ce ne importa nulla, almeno in questa fase, anche se è un problema importante e però bisognoso di approfondimenti non certo superficiali. Oggi vogliamo parlare della vita, del quotidiano del divorziato. Come vive il divorziato? Come vive il separato, colui in attesa di divorzio? Come vive la persona che era abituato ad avere comunque il conforto, lo scontro, la tortura, il tedio, la meravigliosa capanacea di una porta che si apriva, una persona che ti attendeva, improvvisamente non ce l'ha più. Di solito la situazione è divisa al 50%, perlomeno statisticamente, nella più ipotizzabile delle situazioni. Qualcuno arriva a questo momento della separazione che già ha una ruota di scorta bella che è montata e quindi sta lievemente più tranquillo finché non si ritroverà in una alta percentuale di probabilità nella stessa situazione che si è lasciato dietro le spalle. Ma l'altra persona rimane sola, l'altra persona deve cominciare a scindere quelle che sono le amicizie comuni, quelli che stanno con te e quelli che stanno con quell'altro, e poi ci sono un'infinità di minimi problemi di gestione. Quindi oggi, separati e divorziati, 800 24 0024, raccontatevi, lo spazio è vostro. Stephanie? Sì, caro? C'è una cosa che devo dirti. Che cosa c'è? Ecco, non è una cosa facile da dirsi, comunque te la dirò. Voglio il divorzio. Il divorzio? Perché? Non capisco. Va tutto così bene tra noi? No, non va affatto bene, Stephanie. Almeno non per me. Io ho tentato, mi sono impegnato al massimo, credimi. Ma non riesco e non intendo continuare. Hai il coraggio di dirmi dopo 30 anni di matrimonio che tu non vuoi più neanche sforzarti di tentare? Preparo una valigia, da stanotte dormo fuori. Non so quanto accada veramente, come viene raccontato su Beautiful. È uno dei momenti chiave, una delle forze della narrazione, proprio questo, che le persone si lasciano, si separano, si rimettono insieme, si incrociano. Prendo la valigia e me ne vado. Si fa la valigia e se ne va. A me fa ridere quando Homer Simpson, che è in momento di crisi con la moglie, fa la valigia ma va davanti al frigorifero e vuota il frigorifero dentro la valigia e si porta via salamini, barattoli di marmellate e piatti di vivande. Quella è la valigia di Homer Simpson che lascia appunto la famiglia. Ma qual è stata la vostra valigia quando si è interrotto il vostro rapporto di coppia? Cosa vi siete portati via? Cosa avete lasciato? Cosa avete preteso? E cosa invece avete abbandonato in quel momento? Il mio ruolo mi impone, prima di cominciare, di cercare una strada di riconciliazione, di... Guardi che perde tempo, signor giudice. Vabbè, ma se già cominci così, allora è finita. Scusa, è anche riguardoso nei confronti del... giudice. Dottor, senta, ce la metta tutta, perché questa è una decisione che ha preso esclusivamente lei. Va bene? È stata una decisione frettolosa, ingiustificata e ingiustificabile. Poi non ne voglio parlare del mio stato psichico, che è disastroso. Neanche la barba ti sei fatto, commediante. Ma perché? Ti sei chiesto il perché, eh? Che avevi finito la mette? No, perché non c'ho più motivazioni, non c'ho più riferimenti, perché mi hai scippati tutti, hai capito? Allora, lei ama ancora sua moglie? Dottore, io ho votato contro il divorzio. Ma non fa ride voi. Rimanga fra me e lei. Signora, andiamo un attimo alle origini. Sì. Lei ha sposato quest'uomo, quindi ha trovato un motivo di attrazione, di affinità, di... Ma di più, molto di più, oltre, dottor, oltre. Il fatto è che ci sono cascata con tutte le scarpe. Questo è un episodio del Gallo Cedrone, tra i tanti tipi grotteschi delle varie declinazioni dell'italianità in diversi frangenti dell'esistenza. C'è quello appunto della coppia che va di fronte al giudice nell'ultimo disperato tentativo di riconciliazione, e si capisce che il marito vessatore, ipocrita, pieno di difetti, vorrebbe a tutti i costi tenere insieme quell'unione, perché l'unione in fondo mantiene delle sicurezze, mantiene degli status mentali sopportabili. Mi scrive già Daniela su Facebook una abbastanza agghiacciante escalation di sensazioni in una situazione di abbandono. Prima puntata della paura, ho paura di perderlo. Seconda puntata del lamento, ho paura, sento che lo sto perdendo. Terza puntata, quella dell'unione finita, ho paura, l'ho perso per sempre. Quarta puntata, fuoco, non ho più paura, sono morta. Ecco rappresentato il peggio del peggio. Mi lamento perché ho paura di perdere chi già da tempo è assente. Assisto alla mia fucilazione e con stupore mi accorgo che da morta non ho più paura. Mi chiamo Francesco, sono stato imprenditore nel settore delle agenzie matrimoniali, quindi ho avuto varie esperienze in varie zone d'Italia. Separati e divorziati si sono sempre rivolti alle agenzie matrimoniali, anche se poi è cambiata la qualità del cliente. Negli anni 90 si rivolgevano separati e divorziati con vistose problematiche e vistosi handicap, perché l'agenzia matrimoniale era identificata come ultima spiaggia, anche per le persone con un vissuto matrimoniale alle spalle piuttosto spiacevole. Poi nel corso degli anni la situazione è cambiata, perché i ritmi frenetici di vita non hanno mai permesso alle persone di comunicare e socializzare. A Trent, 32enne, divorziata, socievole, amante ballo, viaggi, natura, incontrerebbe un uomo sincero, romantico, dinamico, veramente motivato per un rapporto costruttivo. Provate a dare un'occhiata a quelli che sono gli annunci dell'agenzia matrimoniale. Oggi l'agenzia matrimoniale è fortemente cambiata, non è più il tempo del prete con le foto come nei film di Alberto Sordi, Emigrante in Australia, che aveva le foto di tutte le ragazze baffute, brave ragazze di paese da destinare a quegli uomini con lieve difetto fisico o viceversa. Non è più l'agenzia matrimoniale di chi cerca da zitellone o da zitellona un compagno di vita passata l'età canonica in cui si trova facilmente, ma ci sono due grossi filoni. C'è l'agenzia delle donne dell'est o le donne latine, che è un altro tipo di mercato per persone che cercano compagne prive di pretese, prive di aspettative, facili compagne di vita. Molte volte ci hanno chiamato questi signori dicendo: ah, finalmente abbiamo trovato le vere donne, quelle che ci fanno sentire veri uomini, che non hanno pretese, non chiedono nulla, ci sono vicine. E questa è una sorta di mercato di importazione di felicità. Poi invece esistono fortissime le agenzie che ridanno speranza a coloro che avevano perso la speranza, o perlomeno che tentano di reiterare quello che è stato lo sbaglio della loro vita. E quindi un'infinità di annunci di persone che cercano un compagno di vita alle loro stesse condizioni. Le tipologie di separati e divorziati erano delle più disparate, quindi qualsiasi ceto sociale. La fascia d'età è sempre stata quella più o meno dei 35-55, con figli più o meno di 10-12 anni. Io ho notato differenze sostanziali tra sud e centro e anche nord. Noi riscontravamo una serie di difficoltà. Queste erano più o meno evidenti quando queste persone cercavano un po' la luna nel pozzo. Ovviamente perché? Perché pretendevano la perfezione, non essendo loro perfetti, la cercavano. 39enne laureata, divorziata senza figli, occhi verdi, castana, realizzata professionalmente, affidabile, conoscerebbe un uomo socievole, con personalità, livello culturale, scopo matrimonio. Dice Teresa, poi parliamo del manicomio in cui si autorecludono quelli che si uniscono ai separati divorziati. Vogliamo chiamarli compagni di sventura, vogliamo chiamarli né carne né pesce, né turbini né sodalizi. Oddio mio. Dei trivoli di coppie scoppiate, un tunnel, una via crucis. Nell'era delle coppie di fatto sarebbe bello parlare di noi poveri transgender di coppia. Quelli che non hanno più genere, non sanno più a quale genere appartengono. Cinzia, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo in attesa del suo racconto. Sì, io mi sono separata anni fa e siccome avevo avuto una vita, dopo 25 anni di matrimonio, avevo avuto una vita molto difficile con il mio ex marito, perché era un molto collerico e alzava le mani e tutto il resto. Cioè la menava, tanto in parole povere. Come? La picchiava. Sì. E quando mi sono separata, siccome io avevo molto timore, cioè avevo molta paura di lui, ho preferito non andare avanti con la separazione giudiziale e robe varie. Nel frattempo il mio ex marito, siccome avevamo il conto corrente, io avevo solo la firma, lui ha prelevato tutto e sì che io mi sono trovata con 0 lire e un figlio da mantenere. Allora, sempre perché avevo paura di lui e delle conseguenze della mia cattiveria, cioè nel senso che se io avessi fatto qualcosa contro di lui sarei diventata cattiva ancora di più e me le sarei prese ancora di più, ho preferito chiudere tutto, mi sono rimboccata le maniche e lavoro tutta la settimana, al sabato vado in un agriturismo a fare la cameriera e la domenica vado in un albergo a fare le camere per mantenere mio figlio, non ho voluto assolutamente niente. Perché... Quindi diciamo che ciò che del matrimonio le dava in fondo minimo conforto era l'aspetto economico, era l'unica nota positiva in una serie di note negative. No, non è quello, cioè, il fatto è che io siccome avevo un lavoro molto pagato abbastanza bene, io li mettevo nel conto corrente comune perché pensavo che fosse una cosa comune. Invece non era una cosa comune, come non era. Non c'era, sì, ma dicevo, l'aspetto che va a compensare è soltanto quello economico, non ci sono altre esigenze da dover compensare. Lavora per 5 rispetto a quello che lavorava prima per mantenere una famiglia, visto che dal punto di vista legale e giudiziario la vicenda matrimoniale si è sfilacciata male, non ha nemmeno, sì, nemmeno il diritto al risarcimento. Ecco. Sì, il discorso è che quando uno chiede un risarcimento a una persona che sa benissimo che non te lo darà mai e le cose... Sì, sì, ma scusi, io insisto su una cosa, ho capito, ma è soltanto l'aspetto economico e pecuniario di cui stiamo parlando, non esiste null'altro nell'esistenza di una persona per cui sta assieme a un'altra persona, cioè voglio capire, è separata da suo marito e lei mi parla giustamente dell'aspetto più importante, che è quello della necessità di mantenersi lei e suo figlio, ma non esistono altri vuoti di nessun tipo, sentimentali, relazionali? Ma guardi, quando uno esce da una situazione del genere non ha aspettative, cioè non gliene frega niente di quello che è intorno. Beh, è umanamente distrutto, allora mi scusi. Come? È umanamente distrutto una persona. Sì. Ma questo volevo sapere, grazie, buongiorno. Giusy. Sì, buongiorno. Allora, la mia testimonianza è questa. Io sono divorziata ormai da parecchi anni da un matrimonio, da un divorzio fatto da una giudiziaria. Tra virgolette, dico, mio ex marito era donnaiolo, manesco, insomma, la giudiziaria era della fine, l'ho vinta. Ho preso. Ma parliamo del dopo. Parliamo del dopo. Sono riuscita ad avere i miei diritti a livello economico, però a livello sentimentale ero distrutta, infatti ero diventata anche anoressica. Però dopo mi sono rimboccata le mani, anni, che avevo tre figli da tirar grandi, tra cui 15 anni fa purtroppo ne ho perso uno in un incidente stradale, e lì è stata l'unica battaglia che non sono riuscita a vincere. Sono diventata molto forte, molto battagliera, ho incontrato qualche altro ometto, però nel frattempo questa costruzione di questo affetto, di questo amore, perché dice ometti? Sarà, cioè, sempre più difficile. Signora, perché dice ometti? Uomini ometti di serie B? Perché sinceramente uomini, mi perdoni, con le palle non ne ho trovati. Lo so, è difficile trovarne. Non ne ho trovati. Io ma continua a cercarli, signora? Come? Continua a cercarli, Giusy? Sì, sì. Io penso di potermi mettere a confronto solo con un vero uomo. Perché se non c'è, il discorso decade, purtroppo. In bocca al lupo. Ho notato differenze sostanziali tra sud e centro e anche nord. Al nord è più facile incontrarsi, anche perché al nord sono assolutamente più disinibiti, di conseguenza i risultati sono migliori, e lo vediamo anche dal punto di vista delle chat. La maggior parte delle riunioni in chat sono quasi tutte del nord. Nord e isole, c'è il fenomeno Sicilia che in separati e divorziati, nonché anche single, è molto forte. 44enne divorziata, bella presenza, fine, cultura universitaria, gradirebbe conoscere uomo di classe massimo 58enne, affettuoso, dinamico, posizionato, scopo convivenza, matrimonio. Elena Marzi ha scritto un libro, una giornalista, un'attrice, I divorziati, storie di affitti, affidi, weekend e soldi. Il saggiatore, sono 21 storie vere di divorziati. Elena Marzi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, vorrei entrare con te nel vivo di quelli che sono i problemi quotidiani. Abbiamo sentito due storie di due ascoltatrici che hanno subito telefonato. Mi sembra che il primo problema, dal punto di vista della donna, finora hanno chiamato soltanto donne, sia quello del risanamento della situazione economica. Poi, in un secondo momento, quello della possibile, eventuale, se mai ci fossero le condizioni, ricostruzione di un quadro sentimentale. Ti risulta dalle tue storie? Assolutamente sì, gli effetti della separazione legale sono proprio quelli che vanno a incidere sui rapporti personali e sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. E le storie che io ho raccolto sono storie di ricostruzione della propria autostima, della propria vita quotidiana, della propria identificazione con l'ex coniuge, con le famiglie d'origine, con le maestre a scuola, con gli amici, ma anche quelle di una ricostruzione quotidiana, concreta della vita, e quindi la ricerca di una casa, la ricerca di una nuova condivisione di responsabilità con l'ex coniuge nell'educazione dei figli, e tutto risulta sempre molto... Cioè, non so se hai notato una cosa, per puro caso, le telefonate le mandiamo nell'ordine in cui ci chiamano, le prime due donne che hanno chiamato sono due donne bastonate dai mariti, picchiate, ma esiste, è così elevato il tasso di mariti maneschi nei casi di separazione? Purtroppo questo sì, si sa, la conflittualità comunque non, per fortuna non sfocia solo nella violenza, ma anche nella violenza fisica, ma anche nella violenza verbale. La discriminante della uscita dignitosa di una storia familiare che non è finita, appunto, come doveva, dipende proprio dal livello di conflittualità. C'è una grande differenza tra chi riesce a separarsi in maniera civile e chi no. C'è una differenza perché litigare costa energie, costa tempo, costa denaro e costa tantissimo ai figli. La grande, grande differenza è la capacità di saper gestire la conflittualità con l'ex. Ecco, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni dalla borsa. Sarebbe bello, sarebbe auspicabile che le storie finissero in maniera non sfilacciata, netta, consensualmente. Arrivederci, grazie. Faremo ognuno quello che può fare per mantenere i propri impegni già presi nei confronti dell'altro coniuge, ma non finisce sempre così. Non è sempre uguale il livello di sopportazione della separazione, e naturalmente iniziano le guerre. Stiamo facendo un punto sulla vita da separato divorziato, dato che il dato certo che sono in fortissimo aumento, questa nuova e particolare composizione della socialità umana, che è colui che proviene da una o più storie di vita convissuta, di vita comune, che si ripropone comunque al mondo. E sulla vita e sull'esistenza di separati e divorziati abbiamo sentito un ex agente matrimoniale che ci fa capire quanto ormai le agenzie matrimoniali siano specializzate nel ritrovare punti di contatto fra persone che vengono da esperienze comuni di matrimoni falliti. A volte vengono discriminati perché le amicizie propendono sempre da una delle due parti e non c'è il tempo per socializzare, questa è la verità. E anche di qui poi nasce il discorso internet, che però, per quello anche che si sente, non è vero che è sempre risolutivo, perché più che altro nasconde, perché più che altro abbiamo due persone o una persona che interagisce con più persone, le quali poi omettono, non c'è una certezza di chi sia dall'altra parte. Divorziata senza figli, 55enne, bionda, occhi azzurri, fine, sensibile, comunicativa, sincera, economicamente indipendente, amante viaggi, musica, conoscerebbe scopo convivenza matrimonio Massimo, 59enne, brillante, con classe, personalità. Abbiamo in linea Elena Marzi, che è la giornalista autrice dei Divorziati, storie di affitti, affidi, weekend e soldi, il saggiatore. Elena, hai qualche dato più esatto rispetto a quello che ho dato io sull'aumento dei divorzi in Italia negli ultimi 10 anni, diciamo? Vanno a confermare quelli che tu hai dato, cioè negli ultimi 10 anni c'è un aumento vertiginoso del numero delle separazioni, che hanno avuto un incremento del 60%, i divorzi del 75%. È un'ecatombe che ha coinvolto tutti, ma soprattutto la generazione dei quarantenni. Al lato della separazione l'uomo in media ha 43 anni e la donna 40. E quindi parliamo dei quarantenni che si trovano spiazzati, soli, e questo viene fuori dai loro racconti, una grande voglia di parlare e di raccontare e di mettere a confronto la propria esperienza con quelle degli altri. Si sentono ancora soli i divorziati e i separati, dalla mia esperienza. Non a caso proliferano su internet, peraltro, anche dei forum di autoaiuto, dei gruppi di persone che si confrontano proprio sulle difficoltà di cui stiamo parlando, quotidiane, e si scambiano consigli. Non solo le risposte esistenziali si cercano sulla tastiera di un computer, si cercano anche degli amici, cioè questi gruppi poi si spostano in pizzeria e organizzano le feste per i propri figli e vanno in vacanza, in campeggio, in 60-70, con scene anche molto carine. Alle 8 di sera i figli telefonano all'altro genitore che non è in vacanza, tutti insieme. O che magari in vacanza con un altro gruppo di autoaiuto in un altro campeggio. Magari così. La grande voglia di raccontarsi è emersa prepotentemente nel corso dei miei 6 mesi di lavoro. Ci sono persone che, con mia grande sorpresa, mi hanno detto che ero la prima persona con cui aprivano i rubinetti, e ne avevano un grande bisogno. Avevano bisogno di raccontare quello che proprio succede. Ecco, quali sono i punti chiave della giornata di un separato divorziato? Le prime cose di cui ci si accorge? C'è questo momento, quando ci sono figli, naturalmente il figlio è il fulcro di tutte le tensioni e anche di tutte le attenzioni. Nello scambio, nella gestione comune dei figli che si tengono un po' l'uno e un po' l'altro, è forse il momento in cui ci sono queste frizioni più evidenti? È emblematico il racconto di un padre che ha ancora un rapporto conflittuale con la moglie, ancora non ha risolto dei nodi di un tradimento non perdonato, e per esempio mi racconta di un vero e proprio scambio di ostaggi, così ho chiamato il capitolo, all'atto del ritiro del figlio a scuola. C'è uno scambio di zaini nell'armadio, degli zainetti della piscina, dello sport e della cartella. Non parla con la moglie quest'uomo e si scambia con lei la biancheria del figlio nello zaino, nell'armadio di scuola. Questo è un episodio che mi ha molto colpito. Poi ci sono racconti di relazioni mandate avanti solo via fax, storie di trattative, ricontrattazioni continue fatte a suon di perizie psichiatriche, di raccomandate dell'avvocato. No, ho saputo via. Cose terribili che nemmeno voglio dirle, recupero di pettini per avere i capelli, per fare prove al capello, per vedere se il coniuge si è fatto una canna, quindi c'è un'occasione in più per portargli via i figli, oppure un'altra tecnica mi hanno detto che mettono in atto, si lasciano i rubinetti aperti nella casa di modo che la casa si allaga quando arriva quell'altro con i figli, si denuncia che non ha una casa decente per i figli, insomma c'è una sorta di manuale di vendette terrificanti per farsi fra i coniugi che sembra la guerra dei Roses proprio. Esattamente, ci sono anche dei racconti, io li ho raccolti nel mio libro, di manipolazioni da parte di madri che non vogliono risolvere e perdonare il marito che le ha tradite e che fanno in modo che i figli non abbiano voglia di vederli. Diciamo casi. Che alla base la mancata elaborazione del rosicamento da corna crea delle mostruose vendette. Purtroppo c'è una grave carenza di assistenza psicologica delle persone. Senti, i figli diventano anche una sorta di agenti segreti, di spioni, vengono fatti interrogatori ai figli con chi esce il papà, con chi si chiude in camera la mamma e cose del genere. Certamente, certamente, c'è proprio una diffusa mancanza di diciamo di strumenti per imparare un nuovo linguaggio che invece è necessario, il linguaggio da separati. C'è un padre che invece mi racconta della sua grande fatica, ma della sua riuscita nel superare la gelosia verso il nuovo compagno della ex moglie e della sua riappropriazione del suo ruolo genitoriale col figlio. È che il problema è che uno non riesce mai a ridarsi una dimensione sentimentale, rimaniamo fortemente, morbosamente attaccati a dei residui di storie che non hanno più motivo di esistere, e su questo ci facciamo una vita impossibile, quando sarebbe forse terapeutico buttarsi nuovamente nella ricerca di una compensazione e di un'autogratificazione fisica, sentimentale e via dicendo. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, a lei e a tutti i radioascoltatori. Ascolti, io vorrei dare la mia testimonianza in quanto sono in procinto di separarmi dopo 3 anni di matrimonio. E quello che volevo capire, Nicoletti, è dopo aver avuto 3 esperienze di convivenza, no? di 7 anni, io ho 48 anni, e ho creduto proprio opportuno che fosse giunta la mia ora, quella di tirare su i remi in barca, sposarmi, mettere su famiglia, anche se non c'è mai stato, diciamo, l'idea di far figli, perché vabbè, la mia ex moglie ha 50 anni e quant'altro. Però io, dopo uscito questa esperienza negativa di 3 anni, sono già pronto per imbastirne un'altra, perché non so, volevo capire se sei malato, no? Non credo. Non so, appunto, sono in preda a qualche malattia. Non se le sposi, che devo dire, così è molto, molto più facile poi a ricominciare da capo. Se la sua abitudine è questa di riprogettare continuamente nuove cose, eviti di sposarsele, perché c'è uno strascico abbastanza fastidioso. Ritorni alla vecchia abitudine delle convivenze. Guarda, il mio è un consiglio privo di ogni fondamento scientifico, però a naso, se lei dopo 2 convivenze di 7 anni, che sono già lunghine per essere convivenze, ha deciso di sposarsi, è durato solo 3 anni, evidentemente non era proprio la scelta migliore da fare, ecco. Ma volevo capire se fosse paura o... Beh, ormai lei ha una certa età, 48 anni, non è più un bambino, può benissimo vivere delle storie affettuose d'amore e magari si sposa se vuole poi coronare questo di fronte a Dio, di fronte agli uomini, però paura di che? Ormai ha già rinunciato al fatto di avere una famiglia, e quindi per vivere con una donna può viverci tranquillamente, diventa un problema poi di gestione dei vostri beni comuni eventualmente lo sposarsi, sembra che abbia superato la fase di voler costruire qualcosa oltre un rapporto con una persona, ma poi guardi, non sono né psicologo né consigliere, faccia un po' come crede, segua il suo istinto, sbagli, riprovi, tanto nessuno è mai morto per queste cose. Donatella, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo raccontarle un po' la mia storia. Io ho convissuto per 20 anni con un professore universitario che in parte mi ha convinto a separarmi dal precedente marito. E lui era separato? Lui era separato, a 40 anni si è separato dalla moglie, ha lasciato una bambina appena nata e un maschio di 7 anni. Per stare con lei? Che ne ha avuto un trauma, no, per stare con una sua allieva di 21 anni. Ma lei nel frattempo che faceva? Io? E io ero sposata con mio marito prima. Ma già eravate amanti? No, ci siamo incontrati dopo. Ah, dopo. La situazione sua è, ognuno aveva una propria vita, ci siamo incontrati 20 anni fa e siamo stati insieme 20 anni, non so se la cosa sia andata avanti così a lungo perché... Ma vivevate lui, proprio insieme? Durante i weekend perché lui... Beh, eravate come amanti, non eravate una coppia. Città. Eh beh, non eravate una insomma, coppia. Insomma, come una coppia appunto che si era... Ma la coppia non si vede il fine settimana, la coppia vive insieme, si sveglia tutte le mattine con i piedi dell'altro vicino ai suoi e se no non è una coppia. Se no, sì, se siete amici vedevate il fine settimana, non darei un valore superiore. Ma siamo stati... Cioè, lui si è addirittura divorziato per sì, ma tutta la settimana se ne stava per conto suo e vi vedevate soltanto il fine settimana. Non eravate una coppia. Eravate una coppia di amici, si vedeva il fine settimana. Mi scusi la durezza, ma ogni cosa ha il suo nome. La coppia è quella che divide la vita. Eravate amanti del fine settimana. E lui cosa è successo? Questo erano un po' periodi alterni, ma è la sua dimensione di vita che non riesco a capire. Cioè, si è prima sposato a 26-27 anni, si è separato a 40 per una di 21 anni, dopodiché ha lasciato questa e ne ha ritrovato un'altra che ne aveva 23. Ma nel frattempo, scusi, io chiuderò con una crudeltà terrificante, sì. Ma il resto della settimana, dal lunedì al venerdì, cosa faceva quest'uomo? Lei se l'è mai domandato? Ma io spesso lo raggiungevo. Ma cosa si... dove lavorava lui. Ma qual è il suo problema in questo momento? Che lui l'ha lasciata? Mi ha lasciato per una che ha 30 anni di meno. Vabbè, signora mia, ahimè, cioè, è la dura legge della vita che chi può sceglie poi la carne fresca, è brutto, non è un esempio da seguire, ma lo sa che succede questo però nella vita? Sì, dico, ma ha continuato tutta la sua vita nello stesso modo. Finché troverà persone di 30 anni meno che accettano di condividere con lui vita e intimità, ahimè, sceglie per il meglio. Cosa vuol dire, signora? Mi dispiace molto, ho piena partecipazione per la sua tristezza, però fa parte della triste vicenda umana che gli uomini abbiano questo istinto perverso nel scegliere persone che li gratifichino con una minore età. Prendiamo il filo della narrazione su vicende di persone separate, di persone sconsolate, una signora di poco fa che non si dava spiegazione come mai dopo 20 anni il professore che lei vedeva ai fine settimana l'abbia mollata per una con 30 anni meno di lei e ancora succederà chissà per quanti anni, ma il nostro consulente matrimoniale ci racconta l'ultima tranche della sua intervista data la sua esperienza in separati e divorziati che ricercano una chiave sentimentale che dia ragione alla loro vita. Io ho sempre considerato che dalla separazione e dal divorzio è difficile che si ricreano altri matrimoni, non impossibile, è difficile, però parliamo di unioni di fatto, quindi io ho sempre considerato più o meno un 30%. Viene fornito più delle volte il recapito telefonico perché va superata una soglia di timidezza che spesso l'incontro dei visi non permette, quello è riservato alle coppie un po' più, alle persone un po' più anziane che hanno bisogno proprio di una tangibilità diversa, quindi preferiscono l'incontro un po' dei visi così tutto di un colpo. Affascinante 63enne laureata, divorziata, fine, sensibile ai valori umani, leale, creativa, amante viaggi, arte, vita culturale, gradirebbe conoscere vero gentleman, corretto, posizionato, analoghi interessi, scopo seria relazione. Andrea, buongiorno. Lei mi sembra che abbia una visione ottimistica di una soluzione possibile civile anche per il problema di un rapporto che termina. Buongiorno a tutti. Sì. La mia esperienza, diciamo che è stata un'esperienza che si è subito, ovviamente, al di là della ferita, del fatto che uno ci sta male, perché comunque scopre che la relazione che ha portato avanti per 16 anni finisce l'amore, e ci sono le controversie, la delusione. Dopo, ovviamente, tutto ciò deve comunque lasciare spazio al buon senso, all'intelligenza, e al senso di sacrificio che comunque i genitori hanno verso i figli, non finisce il rapporto. Beh, per molti genitori il senso di sacrificio corrisponde al continuare a stare assieme comunque. Certo, ma nonostante uno ci provi, comunque si renda conto che l'infelicità che vivi insieme a quella persona, perché non sei più innamorato, perché comunque sono subentrate delle complicanze. Ecco, sono le complicanze soprattutto che mettono problemi, perché finché non subentrano le certo. complicanze uno tiene comunque. Certo, perché io non ho mollato subito, io ho impiegato 3 anni prima di dire l'infelicità che vivo, il fatto che io... Sì, ma diciamo le complicanze esterne aumentano il fattore di infelicità interna. Certo, certo, soprattutto, anche perché dopo ognuno si ritaglia i propri spazi al di fuori della casa. Lo so. E si lascia comunque, per quanto riguarda il discorso figli, io ad esempio oggi, dopo 3 anni dalla separazione e senza non pochi compromessi, uno dei quali è quello di aver comunque, come dire, sopperito alla mia ex moglie, il problema del mantenimento, io ho lasciato tutto e ho chiesto in cambio una sola cosa, cioè quella di poter vedere mio figlio ogni volta che volevo. Ah, vabbè, nel momento in cui io sono finite tutte le controversie. Vabbè, sono diciamo beni negoziabili, la tranquillità, la serenità di vedere i suoi figli senza dover avere in mano il cronometro e il calendario con le crocette, oggi a me, domani a te, forse vale la rinuncia a un immobile o qualcosa del genere. Maurizia, buongiorno. Buongiorno, allora la mia storia è simile a quella di tanti altri, sono separata da 15 anni, mia figlia ne ha 16, appunto come diceva il signore di prima, cause esterne hanno fatto sì che avvenisse la nostra separazione. Ma cause esterne significa altre persone, cioè per dirla in termini? No, non altre persone, diciamo l'interesse, problemi di interessi, così, a grandi linee. E quindi... Spartizione di soldi. Qualcosa del genere. Poi quindi mio ex marito lavora all'estero e quindi io sono a Roma e 15 anni che vivo da sola allevando mia figlia, quindi è decisamente molto impegnativo. Senti, ma c'è soltanto l'aspetto sacrificale, che è il primo che viene sempre giustamente messo sul piatto di una vita di separato. Non c'è il recupero di magari una maggiore libertà di espressività che nel matrimonio molte persone si sentono tarpata o compressa? Nel mio caso no, il mio caso è stato di impegno totale, proprio perché il padre di mia figlia non era presente su Roma e di conseguenza... E quindi lei doveva levarsela sola, è chiaro Maurizia. Elena Marzi, concludiamo con te, esperta in storie di affidi, affitti, weekend e soldi. Io vedo però un prevalere in tutte le storie, abbiamo un minuto a disposizione che abbiamo sentito, dell'aspetto sacrificale. Ma perché questi separati divorziati non ne escono mai per dire beh, finalmente me ne vado con chi mi pare, mi faccio grandi serate da satrapo o da odalisca? Nessuno lo dice. Ma sembra no, che soltanto... Non l'hanno raccontato. Beh, sono degli ipocriti allora. No, c'è chi invece che chi riconosce che dietro una separazione, è vero, c'è tanta sofferenza, ma c'è anche un'occasione, un'opportunità di emancipazione, di crescita, di affrancamento, soprattutto da desideri, aspirazioni che forse non sono... Non erano così autentici. No, perché sembrano tutti dei poveri martiri e basta, semplicemente. Io penso che quando noi torniamo la sera e abbiamo una serie di incombenze che sono il frutto della nostra scelta d'amore, del nostro impegno, senz'altro, che volentieri ci faremmo una tequila e ce ne andremmo a ballare la danza del ventre, diciamo beati loro, perché loro non dicono mai, alla faccia vostra noi ci godiamo una vita. Ma c'è anche chi lo racconta invece, c'è anche chi è riuscito a superare il momento della grande crisi ed è più contento, è più magari più povero, magari più solo, però più contento. Un edonismo anticrisi anche in questo caso, la prossima volta però vi voglio più sinceri, grazie a Fabrizio Intonti e a Paolo Corleoni, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.